Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Avete appena sentito una clip della colonna sonora del primo Blade Runner, un film del 1982 che tutti adesso ricordiamo perché nelle sale c'è il sequel Blade Runner 2049, che è molto potente come il primo. Ora, noi non sappiamo se il futuro sarà così come lo hanno fantasticato Ridley Scott e gli altri autori dei due film, e speriamo di no, perché è un po' troppo cupo, però ci sono un paio di cose in merito alle quali i due film ci azzeccano di sicuro. Il primo è che nel 2049 ci sarà una fortissima automazione e un'interconnessione molto potente. Il secondo è che il mondo del 2049 avrà dei consumi pazzeschi di energia, perché un mondo così interconnesso, così comunicante, così automatizzato consumerà molta più energia di oggi. Ora, è impossibile e soprattutto insostenibile pensare che tutta questa energia sia prodotta con combustibili fossili. E comunque l'energia da fonti rinnovabili, nonostante tutta la demagogia e la retorica che c'è intorno, e voi che ci seguite con affetto sapete che noi non possiamo sopportare questo tipo di demagogia e di retorica, ci piace il realismo. Ecco, le energie rinnovabili potranno produrre solo una parte di questa energia e neanche la parte maggioritaria, piaccia o non piaccia. C'è però un'altra fonte che si sta sviluppando a lungo termine e che raramente si prende in considerazione nel dibattito politico-giornalistico, che è la fusione nucleare, che è una forma di creazione di energia pulita che deriva dall'idrogeno e che è diversa dalla fissione nucleare, che genera scorie ed è molto più pericolosa. Allora, su che cosa sia la fusione ci sarà fra poco una scheda, ma noi oggi ne parliamo qui perché la fusione è già una cosa concreta. C'è un progetto in Francia per la costruzione di una centrale a fusione nucleare e pensate un po', al cuore di questo progetto c'è la manifattura italiana, perché c'è un'azienda che si chiama SG, che sta a Genova, che sta costruendo il magnete più grande del mondo, che serve per contenere le temperature che verranno generate, pensate un po', 150 milioni di gradi, perché per la fusione ci vogliono altissime temperature. Ecco, il magnete più grande del mondo, al cuore di questo progetto, viene costruito a Genova dalla ASG, il cui stabilimento è stato realizzato a La Spezia, rinnovando la fabbrica che faceva, pensate un po', le lavatrici San Giorgio. Insomma, una storia di manifattura italiana stupenda, perché si tratta di costruire macchinari che servono a creare la stessa energia che alimenta le stelle. Ma ne parliamo oggi con Davide Malacalza, che è il presidente di questa azienda. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Allora, voi volete rendere disponibile l'energia delle stelle, un progetto ambizioso. Noi aiutiamo a rendere disponibile l'energia delle stelle sulla Terra, perché noi fabbrichiamo magneti superconduttivi che sono un po' il cuore di questi impianti del futuro. E soprattutto voi lavorate sul lungo termine, perché questa centrale a fusione nucleare quando dovrebbe essere operativa? Allora, questa centrale sarà operativa nel 2025. E in realtà non è una centrale, ma è un esperimento, perché il primo prototipo di centrale seguirà se questo esperimento avrà successo. E quindi arriviamo magari al 2049, che è il periodo di Blade Runner 2. Sì, noi ci auguriamo di essere in condizioni, o perlomeno gli scienziati che stanno lavorando a questo progetto, si augurano di essere pronti ad avere delle centrali che produrranno energia elettrica da fusione nucleare dal 2050 in avanti. Pazzesco, una cosa incredibile. E il magnete, poi vi diremo perché serve un magnete, lo si fa a La Spezia nell'ambito di uno stabilimento di un'azienda che ha sede a Genova. Però per capire di cosa stiamo parlando è necessario dire quattro parole sulla fusione nucleare. Ecco qua la scheda. Le reazioni nucleari che producono energia sono di due tipi.

dell'energia pulita. E parliamo appunto del magnete prodotto negli stabilimenti della ASG a Genova. In linea c'è con noi il presidente Davide Malacalza. Senta, ma siamo sicuri che arriveremo alla fusione nucleare? Noi ce l'auguriamo. Il primo test è il 2025 e nel 2025 gli scienziati che sono tutti stanziati a Cadarache con questa facility dovranno dimostrare che la produzione per 60 minuti riescono a confinare il plasma e riescono a produrre energia pulita. Senta, ma non ci sono dei rischi? Perché 150 milioni di gradi, se qualcosa va storto veniamo tutti fusi all'istante. Questo non glielo posso assicurare perché non sono scienziato, io sono un povero operaio che produce un magnete. Però gli stessi rischi mi ricordo che erano stati paventati quando si doveva accendere l'acceleratore del CERN di Ginevra, se si ricorda. C'era stata questa fake news che naturalmente paventava la creazione di un buco nero gigantesco che avrebbe risucchiato la Terra intera. Sembra che sia avvenuta, anzi gli scienziati poi hanno scoperto il bosone di Higgs. Senta, però secondo me una cosa come questa di Cadarache in Italia non saremmo riusciti a farlo, perché si sarebbe sicuramente alzato su qualcuno, che sono gli stessi che se la prendono coi vaccini o che si inventano le scie chimiche, e se avrebbe avuto da noi il massimo ascolto. Io mi auguro invece che riusciremo a farla. In realtà c'è un istituto importantissimo italiano, l'ENEA, guidato da Testa e da Pizzuto, che hanno fatto una proposta proprio per fare una facility di un tokamak, ossia una struttura simile, più piccola, proprio sul territorio italiano, per fare in modo che tutto questo know-how, a quale parecchie aziende italiane stanno partecipando alla costruzione di questo progetto, venga mantenuto e preservato e consolidato sul territorio italiano. Ma come mai voi avete proprio comperato uno stabilimento dove prima si facevano lavatrici? A che cosa vi serve? In fondo la lavatrice è un prodotto semplice. No, il motivo è stato perché da un punto di vista logistico noi queste bobine hanno delle dimensioni elevate, sono lunghe 19 metri e sono larghe 9 metri, per cui necessitano di trasporti eccezionali, per cui noi dovevamo avere un accesso vicino al porto e l'unico spazio che avevamo trovato era proprio La Spezia. Però la cosa interessante è che avete riqualificato degli operai che prima facevano le lavatrici. Questo è bellissimo. Abbiamo andato a cercare questa fabbrica che era in crisi in quel momento, abbiamo rilevato la fabbrica e abbiamo riformato i tecnici che prima producevano lavatrici a fare magneti superconduttivi. La battuta più bella che uno degli operai ha fatto quest'anno è stata che loro producevano ogni 58 secondi una lavatrice in catena di montaggio, adesso ci hanno impiegato 7 anni per fare il primo magneto. Ecco, per le caratteristiche tecnico-scientifiche di questo prodotto, che è proprio il top della nostra manifattura, ecco qua una breve scheda. Il magnete superconduttore più grande del mondo è fabbricato alla Spezia dalla ASG della famiglia Malacalza. Ha un'altezza di 14 metri, un'ampiezza di 9 e un peso pari a 110 tonnellate, quanto un Boeing 747. Si tratta della prima delle 18 bobine tiroidali che opereranno in ITER, la più grande macchina di fusione nucleare, che nel 2025 dimostrerà la fattibilità di questa fonte di energia per il futuro. Le bobine creeranno una potente gabbia magnetica in cui verrà catturato il combustibile di fusione, che dovrebbe raggiungere una temperatura di 150 milioni di gradi. Le bobine tiroidali ITER genereranno un campo magnetico che raggiungerà 11,8 Tesla, circa un milione di volte più potente del campo magnetico della Terra. L'Europa ne produrrà 9, più una di ricambio, mentre le altre 9 saranno fabbricate in Giappone. Almeno 600 persone provenienti da 26 aziende lavorano alla loro produzione. ITER ha dato all'industria europea un'opportunità unica per migliorare i propri standard di produzione mediante l'apprendimento derivante dalla pratica. Di conseguenza, le aziende hanno ampliato le proprie competenze, hanno assunto e formato manodopera e hanno individuato mercati potenziali che offrono loro un vantaggio commerciale nel campo della superconduttività. Ecco, ma allora, ma dottor Malacalza, ci racconta un attimo il progetto imprenditoriale, quanto avete investito, quali ritorni sperate di ottenere, come fate a renderlo sostenibile economicamente, visto che i tempi sono così lunghi, e soprattutto che cos'altro fa questa azienda, oltre a costruire questo magnete ipertecnologico? Allora, la nostra azienda ha un fatturato di circa 50 milioni con un MOL del 20% in questo momento, negli ultimi 3 anni. Però, come capite, forniamo soprattutto magneti specialissimi per progetti unici e la continuità di questi progetti non è... È un business molto ciclico, perché poi fatturerete nel 2025 e soprattutto poi fatturerete ancora dopo se la sperimentazione darà i risultati sperati. Per cui noi abbiamo continuato a investire in ricerca e sviluppo e abbiamo cercato di sviluppare prodotti che potessero avere applicazioni industriali invece di massa. Abbiamo soprattutto dedicato la nostra attenzione al mercato medicale e al mercato dell'energia. In particolare per questi due mercati noi abbiamo fatto nel mercato medicale una macchina a risonanza magnetica completamente aperta che vedo oramai una ventina di installazioni in giro per il mondo. Mentre per il mercato dell'energia stiamo lanciando un limitatore di corrente che serve soprattutto a proteggere le reti elettriche dagli shock che queste possono avere dall'emissione di energia, soprattutto dalle fonti rinnovabili. Senta, ma voi siete comunque attivi nel manifatturiero, anche se avete diversificato nella finanza, vi siete comperati nella banca Carige, ma lei in questo paese che ha ridotto la produzione manifatturiera, che non riesce a essere competitivo nel manifatturiero come lo era una volta e soprattutto che ha un problema pazzesco di produttività che non si riesce a far crescere, ecco, come lo vede il manifatturiero? Il manifatturiero è faticoso, intanto per cominciare, la finanza è molto più semplice e magari dà dei ritorni molto più veloci. Però noi siamo un popolo di trasformatori, abbiamo una cultura enorme che forse se andiamo indietro nella storia va a pescare anche un artigianato unico secondo me, per cui noi dobbiamo continuare secondo le nostre tradizioni, dobbiamo capire che strade intraprendere, che non sono più le strade del passato purtroppo, e dobbiamo capire dove andarci a misurare. Nel caso specifico, nel produrre magneti, come le raccontavo, noi abbiamo un vantaggio di un anno rispetto ai giapponesi. Cioè, c'è un primato italiano assoluto nel mondo su queste cose, che si deve anche alla vostra collaborazione con il CNR, con l'ENEA e con l'Istituto di Astrofisica? No, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ci parla un attimo di queste collaborazioni? Questa realtà ha la nostra realtà ha circa 50 anni di vita e nasce tutto perché lo Stato, le percezioni statali hanno fatto in modo che dei tecnici collaborassero con questi istituti e insieme si andasse a partecipare a questi progetti internazionali e di conseguenza è stata creata questa competenza e questo know-how che poi ancora ad oggi resiste e dimostra di essere particolarmente valido. Guardi, io sono assolutamente colpito e spero lo siano anche i nostri ascoltatori. Purtroppo il tempo stringe. Io volevo chiedere a chi ci ascolta di dirci che cosa pensa sulla fusione nucleare e potete scriverci a fabbrica@radio24.it, poi anche che cosa pensate dell'energia nucleare e della produzione di energie pulite. Comunque, questa intervista su questo argomento così interessante continua sul sito di Radio 24, www.radio24.it, potete andare nella pagina del programma e troverete la continuazione di questo colloquio che secondo me è di tutto rilievo. Intanto, per gli ascoltatori che non vanno sulla pagina, vi saluto e vi auguro buon sabato pomeriggio. Saluti a tutti.